bel tempo e treco. Piacere, io non ti intendo, meco sempre tu sei lesto d'affanno, e meco è sempre il tempo e il disinganno. Quando chiude la terra è regno mio, se me veder non vuoi, pensa di farti in cielo un'alma sede. In cielo ov'io non giungo, e dove bella eternità risiede, fa di me miglior uso, che se il piacer t'inganna, con tardo pentimento mi chiamerai, ed io dirò, non sento.